un resoconto delle ultime ore in al Cairo. Allora, stasera, poche ore fa, è stato lasciato Wael Ghanem, un attivista, un esperto di internet, responsabile di Google in Egitto, un giovane brillante, che è uno degli attivisti che aveva utilizzato internet da anni per creare, diciamo, la nuova coscienza di diffondere l'informazione. E quel gruppo che aveva chiamato per la prima manifestazione, quella del 25 gennaio, che il 25 gennaio era la manifestazione dei giovani. Well, è stato fermato, o meglio dire, è stato non fermato, è stato proprio rubato da strada. Il 28 gennaio da poliziotti in borghese è sparito per tutti questi giorni, sparito. Il regime per tutti questi giorni ha negato di sapere nulla su quel ragazzo, finché 2 giorni fa alcuni politici, imprenditori, altri sotto pressione della piazza Tahrir hanno chiesto informazione al vicepresidente. Ieri è uscita la notizia che sarà lasciato stasera. È davvero, però, da sottolineare, è davvero stato lasciato. Poco fa è stato intervistato, è stato in onda in diretta in una trasmissione su un canale privato, un imprenditore egiziano, un canale satellitare. Però da sottolineare qualcosa, anche questo giochi del regime, che chi ha accompagnato questo ragazzo dall'ufficio del ministro, il nuovo ministro degli interni, che l'ha incontrato il ministro degli interni prima di essere lasciato, è stato il nuovo segretario generale del partito di Mubarak. Allora, questo anche è una cosa che non va bene, ma perché deve andare il segretario? Questi sono tutti messaggi per dire che tutto è cambiato per il meglio, ma sempre collegare questo cambiamento al regime di Mubarak, al partito di Mubarak. Questo non ha intimidito il ragazzo che pochi minuti fa aveva chiesto in diretta televisiva di non vedere più in Egitto il simbolo e il nome di quel partito, perché quel partito è stato il simbolo di un regime corrotto e oppressivo sul suo popolo. Una cosa carina, lasciamo questa, la storia di questo ragazzo, una cosa carina è che ci sono tantissimi giovani, giovani diciamo da 20 a 35 anni, che sono stati ospiti, che sono ancora fino a quest'ora ospiti in varie trasmissioni televisive. Non dimentichiamo che ci sono 4 reti televisive egiziane, satellitari private. Tanti di loro, alcuni hanno cambiato idea, dicono che basta così, ma tanti di loro dicono in diretta televisiva che il presidente deve andare, niente da fare. La piazza ha risposto a tutti questi eventi dell'ultime ore, di ieri, l'incontro fra il vicepresidente e tutti i leader politici, il resto, e anche rappresentante dei fratelli musulmani, e oggi il ritorno in libertà di questo ragazzo, la piazza Tahrir ha risposto con lo stesso slogan che ha cominciato da martedì 1 febbraio: il popolo vuole il crollo del regime, del popolo vuole che il presidente va a casa. Niente da fare, la piazza è determinata e la cosa positiva che anche questo viene così chiaramente detto dai giovani su reti televisive egiziane, anche se sono private, perché il mainstream media egiziana si è moderato un po' toni, ma non ha cambiato ancora sicuramente il messaggio politico. E sui media italiani è girato questo video di questo ragazzo che è stato sparato così a freddo dalla polizia, lui che si toglie la maglietta, è girato tantissimo come il video della protesta eccetera, però non ci sono stati sui giornali nessuna dichiarazione da parte del governo o piuttosto di prese di posizione, niente. Che dicono i media? Ma questo video, che quando è uscito, allora una prova evidente, sicuramente scioccante. Però noi da giorni, perché ci sono alcuni che sono morti in piazza Tahrir vicino a noi, allora i morti li abbiamo visti con i nostri occhi, ci sono 350 morti in 14 giorni, 5.000 feriti, allora ci sono tante richieste e tante denunce di cittadini, di attivisti, di partiti politici, denunce. Cause che chiedono di essere processato. E il presidente, il primo ministro non attuale, quello precedente, è sicuramente il ministro dell'interno. E oggi noi, come interessati anche nel discorso di media, stiamo preparando per una denuncia contro il ministro dell'informazione. Perché le menzogne che hanno mandato in onda nella TV egiziana e nei giornali del statale, marchiando la piazza essere, non lo so, gli iraniani, israeliani e il resto, era un richiamo per ucciderci. Qualsiasi cittadino poteva veramente, anche con i suoi mani, attirarci fuori dalla piazza a ucciderci. E ci sono stati una ragazza di quelle che hanno perso la vita entrando piazza Tahrir qualche giorno fa, alcuni non lo so, cittadini l'hanno picchiata sulla testa, ragazza rimasta in coma 3 giorni e poi morta. Allora, se non fosse stata questa campagna di criminalizzare la piazza Tahrir, questa ragazza sicuramente non avrebbe perso la vita. Allora anche noi stiamo preparando per una denuncia e una causa contro il ministro delle informazioni. Domani in piazza Tahrir ci saranno ancora più di 1 milione di persone. Il sistema che noi abbiamo, che la piazza ha scelto, che venerdì, domenica e martedì dobbiamo superare il 1 milione. Allora, ieri siamo arrivati quasi ad 1,5 milioni, domani dobbiamo essere ancora 1,5 milioni, e non dimentichiamo che ci sono in arena sempre con piazza Tahrir manifestazioni simili in tutte le città dell'Egitto, soprattutto ad Alessandria.